ogni mese più o meno sono circa 100.000 utenti che passano al mercato libero, che sono tanti. Però occorre anche aggiungere, questo è un dato preoccupante su cui riflettere, che circa il 20% di utenti che sono passati sul mercato libero perché si aspettavano una bolletta più leggera, perché si aspettavano un maggior servizio, perché si aspettavano una maggiore qualità, invece sono tornati indietro sul mercato vincolato, sul mercato protetto dove le tariffe sono stabilite dall'autorità. Allora qui ci sono due problemi importanti. Il primo è che nel settore dell'energia la concorrenza e quindi la differenza, i vantaggi, sono estremamente modesti. Mediamente passando al mercato libero una famiglia può pensare di risparmiare 20-30 euro, può arrivare anche a 50 in taluni casi. Parlo di annui, non mensili, annui. Quindi il vantaggio del mercato libero purtroppo è ancora molto modesto e quindi la concorrenza è limitata. Il secondo problema è che c'è poca trasparenza. Poca trasparenza in che senso? Nel senso che quando si va a proporre alle famiglie di passare al mercato libero, non gli si dice che passano al mercato libero. Spesso e volentieri queste persone che arrivano a casa dicono: vuoi lo sconto? Firma qui che ti diamo lo sconto. Poi le persone si accorgono di quello che hanno firmato e vedono che quel vantaggio che gli era stato promesso non c'è, oppure magari vedono che gli arriva una bolletta molto più elevata su un consumo che non hanno realizzato, quindi su delle fatturazioni sbagliate, e quindi tutto questo ha creato molti problemi, vuol dire molte insoddisfazioni, molte critiche, e quindi alcuni consumatori passati al mercato libero sono tornati indietro. Quindi c'è bisogno di maggior trasparenza.